Cinderella, Gypsy Road, il pezzo con cui io, Barbara Caserta, ho aperto oggi questa puntata speciale del Crazy Train, la puntata d'addio qui sulle frequenze di Rock FM. E rimaniamo negli anni Ottanta con il secondo brano che ho scelto per voi, un'altra delle mie canzoni in assoluto preferite. Vado a ripescare un'altra band, secondo me, assolutamente super sottovalutata, e una live band assolutissimamente eccezionale. Si tratta dei Tesla e questa è la loro ballata per eccellenza. Un pezzo meraviglioso, sentite che note che ci sono già sotto. Love Song. Love Song con i Tesla, capolavoro assoluto veramente dell'hard rock, questa ballata strappa lacrime e ci sta direi bene in questa puntata speciale del Crazy Train qui con Barbara Caserta sulle frequenze di Rock FM. Ma andiamo avanti con un'altra delle mie canzoni, diciamo, simbolo e preferite anche. Torniamo veramente indietro di parecchio, addirittura prima della mia nascita, si parla di 1967, quindi con un brano che è nato ben prima di me, con la prima rock band che ho amato in assoluto, il mio primo amore, se i Mattia Bazar non valgono, diciamo che sono loro, i Beatles. E questo brano tratto da Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band è uno dei capolavori assoluti dei Beatles, che coniuga la melancolia, diciamo, di McCartney con l'estrosità invece di Lennon, ed è un connubio assolutamente eccezionale che ha iniziato parecchio nella storia del rock, ha dato veramente un'impronta importantissima. Si tratta di un pezzo capolavoro, anche qui almeno secondo me, ma non credo solo secondo me, si tratta di A Day in the Life, che ci riascoltiamo molto volentieri. The Beatles, A Day in the Life, capolavoro assoluto appunto di Lennon e McCartney, che ho scelto per rappresentare appunto il mio primo amore, come è stato il primo amore di tanti, penso, all'ascolto, i Beatles. Ma continuiamo con questa puntata speciale del Crazy Train, ecco, e facciamo una parentesi. Il Crazy Train spesso si chiudeva in maniera particolare con una cover eseguita da sia personaggi famosi che gruppi indie di canzoni conosciutissime, spesso classici appunto della storia del rock. E questa parentesi della cover, diciamo, chiudeva spesso anche i piccoli collegamenti che io ho fatto sia con Claudia, quindi nel suo spazio, che con Max De Rio invece più di recente, con le notizie, insomma, anche lì gossip o particolarità, insomma, che riguardavano il mondo del rock. Ecco appunto, allora, quindi adesso facciamo una parentesi anche qua in questa puntata particolare con due cover. Cominciamo con la prima, rappresentata da uno dei miei gruppi in assoluto preferiti, che insomma è un po' il motivo di questa trasmissione, è un gruppo con cui anche io ho lavorato, sono stata la loro fotografa per diversi anni e tuttora lo sono, infatti nel loro live DVD trovate parecchie delle mie foto, il Made in Switzerland, mi riferisco a quello. Ma qui si tratta di un altro live, stiamo parlando del live acustico che risale al 1997. Stiamo parlando naturalmente dei Gotthard, che qui eseguono, e fu anche il loro primo singolo tratto dal primissimo album che usciva nei primissimi anni 90, e si tratta di Ash dei Deep Purple, rivisitata appunto dai Gotthard, dalla Svizzera con amore. 1997, questi erano i Gotthard di Defrosted, un album acustico di grandissimo successo che poi è diventato anche un tour che è durato quasi 2 anni e quindi li ha portati un po' in tutta Europa dal vivo. E visto che il rock è fatto anche e soprattutto di concerti, non poteva mancare una parentesi live in questa puntata del speciale del Crazy Train. Erano i Gotthard appunto con Hush, che loro sono sicuro hanno rubato ai Deep Purple, ma in realtà la cover è di un altro artista, visto che è stata scritta da Joe South, lo stesso di Games People Play, ve lo ricorderete senz'altro, che appunto scrisse questo brano, ma venne portato in realtà al successo prima di tutto dai Deep Purple negli anni 60, ancora dalla Mark One, quindi con il primissimo cantante. Ma andiamo avanti sempre con questo motivo delle cover, che chiudeva sempre il Crazy Train e chiudeva anche gli appuntamenti delle news che ritagliavano appunto nei programmi di Claudia e Max, con una cover del tutto speciale, visto che va a abbracciare due delle mie band in assoluto preferite. Si tratta dei Poison, che sono una delle hair metal band in assoluto di maggior successo, che rubano in questo caso dalla mia band del cuore l'inno del rock and roll. Si tratta di Rock and Roll All Night, rivista appunto dai Poison in questa versione rubata ai Kiss. Mr. Rocket. Con Rock and Roll All Night rubata ai Kiss, che ho scelto appunto, essendo il mio gruppo preferito, di farvi riascoltare in maniera senz'altro più originale, con una cover che chiudeva sempre gli spazi del Crazy Train. Qualcuno all'ascolto magari mi conoscerà anche come la batterista delle Kiss Sexy, quindi senz'altro i Kiss non potevano mancare in questa puntata speciale. I Poison, che hanno inciso, facciamo anche la radio di servizio visto che ci siamo, il loro ultimo album era appunto una compilation di cover che conteneva anche questo brano brano, questa rivisitazione di Rock and Roll All Night, e tantissime altre cover raccolte durante la loro carriera e anche reincise per l'occasione. Ecco, questa in originale, insomma in origine diciamo, era contenuta nella colonna sonora del film Less Than Zero, che uscì anche in Italia per un brevissimo periodo di tempo nelle sale. E siamo arrivati alla fine della corsa di questo speciale Crazy Train e ho scelto per voi in chiusura appunto un pezzo simbolo, un classico assoluto della storia del rock. Non lo sono soltanto io a dirlo, l'hanno detto anche i giornalisti ben più contati di me che scrivo su Rock Hard da anni per voi, ma insomma stiamo parlando di Rolling Stone e anche della quotatissima VH1 americana, che hanno entrambe votato questo classico come una tra le 100 canzoni rock più belle in assoluto. Un inno, una canzone simbolo che parla di rivoluzione, anche della disillusione, insomma, dalla rivoluzione. Meet the old boss, same as the old boss, dichiara Roger Daltrey alla fine di questo brano. Sono gli Who e questa è la bellissima, grandissima, immortale Won't Get Fooled Again. E su queste note del primo sintetizzatore inserito appunto in una canzone rock nel lontano 1971, l'anno in cui uscì Who's Next, Barbara Caserta si congeda da voi, vi saluta e spera che questo sia soltanto un arrivederci. Grazie Rock FM. Ehi la colleghi! Ehi colleghi! Garabelli! Ok, siete all'ascolto di Rock FM. Il microfono bisogna aprirlo. Ragazzi, sono smesso. L'ho acceso. Perché abbiamo tutti gli occhi da sole? L'ho acceso tante di quelle volte. C'è sole. L'ho acceso tante di quelle volte che per una volta posso anche non accenderlo, no? Facciamo sentire grazie, la gente dalla strada. Allora facciamo un po' di cronaca. Questa è via Locatelli, anzi via Vittor Pisani, Milano, in festa per 50 anni del nostro direttore Marco Garavelli. Che brutta la parola direttore. Era così per dare un po' di sostanza alla cosa. Del nostro grande fratello, anche grande fratello brutto. Cuffiate il direttore. Marco Garavelli. Voglio fare un coro. Voglio fare un coro, Ariel. Ragazzi, voi la sentite la radio da lì? Pensate là, porca vacca. Stiamo cercando di coinvolgere la piazza. È un caso di radio interattiva, esatto, ma davvero faccio... interattiva. Sti cazzi, nel senso, finestre aperte. Esatto. E si urla. Via Pisani. Marco, trovate una cuffia per Marco. Parli tu, ti senti. Questa è ancora tutta roba per Garavelli, ricordiamolo. Che si sappia. Questa roba tua. Che nessuno si vanti di aver ricevuto un applauso così fragoroso. Eh sì, è colpa tua, Marco. È colpa tua se. Vedo Treves in strada. Ok. Sì. No, addirittura Treves. Mamma mia. Noi in effetti ci siamo ritrovati davanti ai microfoni, anche perché ricordiamolo, sono le 15.32. Manca davvero pochissimo. Credo che chiuderemo ognuno di noi singolarmente facendovi ascoltare una canzone con una personale riflessione. Però volevamo dare anche. Volevamo dare anche spazio alla dottoressa Montanari. È vero. Che ormai abbiamo ribattezzato come signora Zigulì. Esatto. Che è qui con noi in questo momento, e quindi se qualcuno riesce a farla. Sta arrivando. Grande! Eccola la dottoressa Signori. Montanari. Allora, anche per lei dovremmo chiedere un boato della folla. Esatto. È vero, assolutamente. Vittor Pisani! No! Ecco, c'è un'interferenza. Aspetta un attimo. No. C'è un po' un problema di. Sta diventando davvero una partita di calcio. La curva è schierata. Sì. Fortunatamente la curva è dalla nostra parte. Signori. Sono gli ultras, ragazzi. Esatto. Pubblicità poteva funzionare, mi sembra evidente. Quello che è successo, la scatola. Quello che è successo in questo ultimo mese è davvero qualcosa di magico. E anche la dottoressa Montanari ha dato il suo contributo a questa magia. Ok. Supportandoci. No! Sì. È così. Non vorranno più la mia pubblicità su 100. No, ma no. Dottoressa Montanari è inserzionista. Ok, ragazzi. Allora, riusciamo a strappare solo un breve saluto alla dottoressa. Saluti a tutti, grazie della solidarietà. Mi spiace di essere qui in un giorno così triste, però è anche allegro perché c'è una grande partecipazione. Sono molto contenta di essere qui anch'io. Ciao a tutti. Grazie. Questa è la dottoressa Montanari, una persona che ci ha voluto bene. Come le tante che sono qua sotto. Tra l'altro, se ancora avete qualche dubbio e siete in giro per Milano e ancora non avete capito dove siamo in via Locatelli al numero 1. Adesso scendiamo a fare le foto. La foto con la dottoressa. Sì, la dottoressa. Beh, più qualcuno rock. Rimane qua in onda, no? Sì, andiamo giù a fare le foto con la banda. Allora, voi che lo siete musicisti è una parola grossa. Sì, ci vediamo dopo. Chi rimane? Tu e Giulio. No, Edo. Ah, ok. Ma Gravelli, quanti applausi ti hanno fatto? Ma che momenti hai vissuto? Io chiuderei una radio tutti i giorni così. No, anche io piangevo per te, ero commossa. No, più che ieri notte, ieri mattina, alla fine, quando tu, Elena, Edo, Nicky e Max stesso avete intonato il tanti auguri con 200 persone con candeline accese sotto. Il magone è ancora presente, credimi. Sì, ma tu, allora, in realtà vorrei dire una cosa soprattutto ai ragazzi che sono qui sotto, che ci vedono in questo momento, tutti con gli occhiali da sole, e magari saranno pensando, ma come fanno le rockstar? Siamo questi? Ibiza. Come mai? Ecco, siamo tutti con gli occhiali da sole, perché siamo bruttissimi oggi, e poi perché siamo così, abbiamo gli occhi leggermente lucidi e siamo molto molto molto emozionati, quindi è per quello che in questo momento abbiamo questo look un po', stiamo cercando di mascherare. Però, allora, siamo... Ma, l'irruento è arrivato, Aspettiamo che colleghi ci dice eccolo. Qualcosa. Oh. Eccolo. Anche Edo, gli altri sono giù. Sì, siamo andati a fare le foto con Miss Zigulì. Ok. Grandissima. Allora, adesso è un momento tutto di Claudia, perché sì. Potrebbero essere anche momenti nostri nell'arco di 15 anni. Esatto. Ognuno ha registrato dei programmi, ha registrato dei promo, ha registrato delle interviste, ha registrato delle pubblicità, e nessuno di noi è bravissimo, diciamo. Esatto, insomma, diciamo che il famoso non buona la prima, e insomma, era, ogni tanto succede. Insomma. Era buona la millesima. Esatto. Il problema Claudia era buona la 10 milionesima. Esatto, e la particolarità era che era veramente folcloristica la ragazza nel modo di, come dire, essere così non particolarmente contenta della sua prestazione. Trattasi di doppiare un'intervista, trattasi io di fare un gingolino. Io non ho mai amato queste cose, non le ho mai amate. Ed effettivamente e hai avuto modo di esprimerlo. Ecco, per fare tutto questo, noi che siamo amici, sì, esatto, abbiamo ottenuto tutto. Solo di lei. Grazie ragazzi. Anni. Io chiedo scusa in anticipo per il linguaggio un po' colorito, però. Io invece prego chi è qua fuori di alzare foltissimo la radio, perché è un momento importante. Claudia ha studiato in un college svizzero. Sì. Ha avuto la laurea. Sì, esatto. Però scritto anche un libro sul Bontone e sul Galateo. Esatto. Però il professore magnifico era Erpatata. Il suo linguaggio scurrile è stato, esatto, dove si arriva agli eccessi, giustamente bippato, dove ormai è consuetudine quasi anche televisiva i vaff di qui, lì ormai i porci di qua, cioè, e ve li sorbete, quindi non è un orario protetto, però, esatto, quindi i bambini magari i genitori toglieteli all'ascolto, i bambini, esatto, fateli andare a giocare un attimino. Fategli uscire il cane. È un momento un po' di ilarità, forse. Dobbiamo, esatto, spiegare, esatto, che quello che il contributo di circa 4 minuti che manderemo in onda ora è quello legato ad un doppiaggio. Lei è forte nei doppiaggi, esatto, delle interviste. Non gli piace assolutamente fare quello, leggere i testi, non riesce a interpretarli, esatto, e si impapera un po' di volte. E se la prende con qualsiasi cosa. Io sono stato felicissimo di essere il tecnico di questa registrazione. Non sei citato, però eri tu dall'altra parte del vetro. Abbiamo accorciato nel più possibile, certo, i tempi. Certo. E l'intervista era il doppiaggio, in effetti non è mai andato in onda. L'intervista effettuata da una cantante di una band olandese meta, che sono gli After Forever, in occasione del loro concerto a Milano. Il buon Simone aveva effettuato l'intervista. Claudia, con tutte le traduzioni, ha cercato di registrare la voce di lei. Quindi verranno citati gli After Forever, delle frasi di questa intervista. Esatto, delle vogliamo parti. Vai, provare. Andiamola a sentire. Ripeto, ci scusiamo. Claudia Superstar. Ci scusiamo già da ora per qualche parolaccia, vabbè, un po' di torpiloquio, è però questo. Esatto. Dai. Oh, ma... Scusa, oggi c'era il radio Tarja Turunen e allora così. Ci dovrebbero fare come Gravelli. Ti ricordi Gravelli ai tempi quando, non so per quale strano motivo, dopo prima di andare in onda arrivava col germo zero, spruzzava lo germo zero sul microfono. Minchia da maniaco. Allora, intervista Floor Jansen, o Jansen, che sembra anche un po' un travestito. Vuoi fumare in studio? Fuma pure, Edo, non ti preoccupare. After Forever, domanda numero uno. Aspetta che c'ho il muco. Non è il buco. Sai cosa si è raffreddato? Che c'hai... No, rifaccio. Che fosse l'esordio per la nuclear bar. Ah, la rifaccio, non riesco a fare ste cose. Porca troia, oh, allora, non perché devo farle io ste robe che mi sta sul cazzo farle, porca la miseria. Oh, credo che entrambe le motivazioni che hai dato siano corrette. Innanzitutto, grazie. Questa è quella buona e... Porca... Oddio, oddio, ha spaccato tutto. No, ok. Va bene? Ma quanto cazzo parla questa, porca troia, stronza, guarda, mi sta già sul culo. La nostra musica fa cagare altro che molto varia, ed è difficile descriverla col suo nome, fa cagare. La nostra musica è molto varia e difficile. Ed è dai, porca troia, affanculo! Minchia, finiamo tra 2 anni. Fanculo! Ardendevi, Gravelli! La nostra musica è molto varia ed è difficile descriverla con un solo... No. Ma la dif... La, sì. Ma la nostra musica è molto varia ed è molto... Ed è... Ma va... Minchia, è lunghissima sta roba. Cioè, adesso più vado avanti, più ti rendi conto che non ha un po' di senso. Dai, dai, dai! Paura, paura. Quando ho cominciato negli After Forever avevo... Quando... Ti giuro, gli faccio fare il giro di Cornaredo nudo la prossima volta che mi fa fare ste merdate. Mentre lavoravamo al nostro album, volevamo infetizzare. Adesso sputo io sul microfono, mica glielo faccio tornare bianco domani. Vada via al che. Mentre lavoravamo al nostro nuovo album, volevamo infetizzare. Ancora! Non ridere, ti vedo che ridi. E non fare sì. No, sai cos'è? Che ho mangiato i mandarini al volo e quindi si vede che sono... Boh, si è creato dell'acido. Porca troia. Speravo di essere già laggiù. Beh, matto! Dai. Alcuni, ad esempio, sono legati al tema dell'energia. Mi faccio la ceretta con la cosa del DVD. Dai. Abbiamo realizzato un DVD. Non ce la farò mai a dire DVD. No, sai cos'è? Allora, non so. Ah, sai cosa? Sai che ho scoperto cosa mi gonfia a me veramente? L'insalata. Cazzo, me la Melody. Allora, com'è? No, dai, basta, sono stanca. Mi sono rotta i coglioni. Basta! Questo basta. L'ho fatto io! Il pompettone! Il pompettone! Sì, sì! Per usare il titolo di una canzone dei Nightwish e lei risponde il pompettone. No, basta. Scherzo, scherzo, scherzo. Questa è Claudia. Questa è Claudia. Un applauso per Claudia. Ragazzi, io mi sono sputtanata così. No, è stato bellissimo. Tra l'altro, in realtà c'era ancora qualcosina, che non abbiamo tirato fuori. No, ne abbiamo un altro, se volete. Sì. Ne abbiamo un altro. Ci fermiamo qua, guarda. Ma quanto ho riso. Ragazzi, un po' meno quando registravo queste cose. Che mamma mia, delle nottate in radio per fare un'intervista, porca miseria. Sono le 15:49, non vorrei essere quello che dice sempre cose cattive. Però... No, però sei quello che dice cose cattive. Tra l'altro, fino a domani mi pagano per questa cosa, quindi. Sei sicuro? Forse. Ma comunque mi farò dare anche gli arretrati. C'è un altro amico che è venuto a trovarci, però non lo vogliamo salutare. Certamente. Un'altra voce. Bello. Lo cuffiamo. Ti stiamo cuffiando. Anche perché, permettetemi, quel microfono è stato suo per quanti anni, Paolo? Diversi. Qua adesso non faccio più il conto, ma dal 90, quasi una decina d'anni, diciamo, l'abbiamo utilizzato qua al mattino presto. Per chi non l'avesse riconosciuto, questa è la voce di Paolo Cavallone. Grazie. Bella Cavallone. Ragazzi, oh bella, oh. Sono contento che ho scoperto che Claudia usa citrosodina. Hai scoperto cosa la gonfia. Esatto, è citrosodina, proprio quella, dovessi usarne meno. Già. Tutto merito delle Ziguli comunque. Ma io ero, vabbè, non sapevo. Sì. Vabbè, sono momenti, è il bello della diretta, no? Questo, sì, esatto, sono cose fantastiche. Tu non lo fai mai in onda? In onda magari no. Però la macchinetta del caffè tante volte, sai, si lascia andare. Beh ragazzi, noi, mi spiace di cuore, sono qua a dire tante cose che hanno detto tutti, ma vi sono vicino. Ma magari non tutti. No, vabbè. No, sei l'unico forse. No, uno dei pochi, mettiamola così. Esatto. Dai, fatti bravi, dai. A proposito, dovete tutti a lavorare da domani, dovete mangiare da me, perché... Ci vediamo da te. Ci vediamo da te. Volentieri, grazie. Dai, vedo che già arrivano gli sms, c'è già sul data system, è cambiato... 101 no, sì, 101 aspetta. Culo. Ci vogliono bene, quindi da domani sentirete, anzi no, ancora qualche giorno Ah bene, dunque lo spiego adesso. Sì, vai, finiremo Marco. Intorno alle 18 e qualcosa, sì. Con un qualcosa che scoprirete direttamente ascoltando la radio. Ci sarà una lunghissima pausa di silenzio, poi se partirà un qualcosa musicale, rock, pop, dance, eccetera, non sarà e non farà più parte di questo stato. Qualsiasi cosa uscirà, ok? Per un giorno, due, tre giorni, quello che sarà il futuro. Del resto, giustamente, questi studi non ci apparterranno. Cavallone, hai mangiato la foglia? Chi è? Aria, scusa, non t'avevo visto. La foglia, quale? Sì, cioè, tipo, quella, hai mangiato la foglia. Quella 5 punte. Hai capito il messaggio? Sì, ma quella si fuma. Si mangia anche. Ok. Anche se saranno le Zeppelin, non si. Non siete voi comunque. No, ok, va bene. Esatto. It won't be us anymore. Bellino. Faccio un rutto, Claudia, che chiudiamo. Devi darmi qualcosa di gasato. Let's more rock and roll. Vuoi qualcosa di gasato? Non ti basto io? 5 sorsi di qualcosa di gasato e parto. E parto se volete. Grazie a Paolo Cavallone. Ciao a tutti ragazzi. Long Train Running. Lasciatevi annunciare questo disco da Doobie Brothers, right here on Rock FM. check it out, check it out. Get the fun, King the House. Io. FM, 15 e 55 minuti primi. Allora avrei una comunicazione da fare allo staff dei miei colleghi. Allo staff Funger. Avremmo preso questa decisione da questa parte dello studio di fare una trentina di minuti all together, come se fosse. Antani, bella lì. Come se fosse l'ultimo giorno della radio. Esatto, e buono. A seguire un saluto singolo, insomma, un congedo singolo e poi il congedone finale. Con sorpresa, che non è il rutto di Claudia. No. Subito. Sarà più o meno simile. Ma esatto, ma non quella roba lì. Quindi inizia questa 30 minuti. Scusa, io ho dei nuovi fan dopo questa mia esibizione. Ovvero? Mi hanno invitato ad un non da gara, non so, aspetta, non trovo più il messaggio, però. Tra l'altro Claudio in questo ultimo giorno è passata dalle citazioni a Baudelaire che ha fatto durante lo spazio. A Rutto Romagna. Con Vianello. A cosa? Ragazzi, scusate. Rock and roll vuol dire anche questo, parlare in un momento di cose serie e cose culturali, in un altro momento fare la gara di Rutti. Che problema c'è? Perché era un complimento. Oh, pezzi di merda. Ecco, se già guarda che non sono nervosa. Si è già sfaldata la famiglia. Esatto, la vostra sinistra, la vostra destra, Edo Rossi, Maurizio Paulisi, Giulio Caperdoni, Claudia, Max De Rio. Dall'altra parte del vetro il DJ Ariele, c'è anche Garavelli. Ma stamattina l'acuto che mi ha fatto fare a quel ragazzo di Genova. Porca vacca, complimenti a lui. Porca vacca. Allora, a proposito di Genova, Milano, Romagna, Toscana, davvero un ringraziamento di cuore alle tante persone. Forse una piccola tiratina d'orecchio ai milanesi che sono stati come al solito sempre un po' più così. I milanesi hanno quell'atteggiamento un po' così, cioè c'è gente che ha fatto davvero chilometri, che ha dormito qui stanotte in macchina per essere qui con noi e noi vi vogliamo bene. Grazie ragazzi. Allora c'è un filo di imbarazzo nel scegliere il brano, nel senso che nessuno di noi ha dichiarato agli altri che brano sceglieva, o ricordo male. Quindi proprio così. È un po' una partita Cluedo, nel ma senso l'unica che l'ha detto tutti. Se io e ma se scusa, io perché Marco giochiamo a me, scusa? Cluedo. Perché io mezz'ora così non la reggo. Nemmeno io. Me ne vado subito. Esatto. Se io e Marco per esempio i Twisted Sister di We're Not Gonna Take It li possiamo mettere o no? Guardiamo un rapido. A me va bene. Aggiudicato. Giulio Caperdoni sicuro di non aver scelto. Dice di no. Lui è più per i Bon Jovi. Mentre ci siamo rinchiusi da soli nello studio, ma non ce ne vogliano coloro i quali sono stati cacciati ignobilmente. Però ci farebbe piacere avere gli amici che sono qua sotto. Secondo me se metti quella lì sotto iniziano a saltare, lo sai, fratello. Provaci. Perché non mi apri la finestra che sento un po' che reazione hanno? Allora, vediamo come reagisce la via Vittor Pisani di Milano. Via Vittor Pisani, se riesci a sentirla, questa è per voi. Come se ci fosse qualcuno che canta.